Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di aziende, parliamo di management, parliamo di donne. Parliamo di donne perché parliamo del libro Esplorare i confini, pratiche di donne che cambiano le aziende, edito da Guerini Next. L'autrice è Luisa Pogliana. Buonasera, dottoressa Pogliana. Luisa Pogliana è stata per molti anni responsabile della direzione ricerche di mercato in un grande gruppo editoriale italiano, poi consulente di ricerche sui mercati internazionali, ha coperto ruoli in enti internazionali nella Commissione europea, ha scritto anche altri libri sul management femminile. Ecco, cos'ha di diverso questo libro e perché si intitola Esplorare i confini? Sì, perché sono diversi anni che lavoro proprio a raccogliere esperienze innovative di donne, innovative nel senso che vanno oltre le concezioni codificate del management, oltre i modelli sperimentati, oltre le pratiche acquisite, cioè portano una visione diversa le donne. Questa è la ragione perché finora nel management c'è stato un pensiero quasi solo maschile, ovviamente un pensiero unico, soprattutto un pensiero appunto maschile nel senso unico. Le donne arrivate relativamente di recente nel management hanno portato un punto di vista diverso perché hanno una vita diversa, guardano tutto il mondo, quindi anche l'azienda e il loro lavoro in un modo diverso. Il libro è nato soprattutto da questa presa di coscienza di questa realtà, che molte esperienze nuove che le donne fanno con risultati positivi non vengono valorizzate perché appunto non rientrano in un modello codificato. E allora sì, magari le si tratta da buona pratica da cui prendere qualche idea o da buon senso e si liquidano così, cioè non cambia la cultura manageriale. Sì. Invece la grossa portata di queste esperienze è proprio che allargano la cultura manageriale, portano dei criteri nuovi, delle soluzioni nuove che danno risultati migliori. Ecco, questo libro appunto nasce da una ricerca, nasce dagli incontri, nasce da colloqui con molte donne che coprono appunto posizioni manageriali di rilievo, le esperienze che vengono appunto raccontate in questo libro che partono poi da una realtà. Infatti il primo capitolo dice proprio partire dalla realtà, non dai modelli. Sì. Già questo è diciamo un criterio abbastanza ambizioso, perché il management ha di solito delle competenze, ha dei ruoli precisi, ha delle procedure da seguire e così sì, via. Sì. Quindi è anche la realtà delle aziende che sta cambiando. Sì, perché questo è proprio un punto di partenza comune di queste esperienze, con donne con cui ci siamo scambiate pensieri e appunto le loro esperienze e le riflessioni. Il punto di vista comune è proprio di partire non da quanto è stato sempre fatto, non dai modelli dati, ma non per disprezzarli, ma perché vanno contestualizzati. Oggi serve qualcos'altro. Allora loro partono dalla realtà che hanno davanti, partono da quello che loro ritengono giusto e positivo e poi si confrontano con la realtà, ovviamente. Non è che pensino di aver sempre ragione, ma cambiano. È una libertà di pensiero. Ecco, ecco, c'è più una ricerca di fare delle cose perché si devono fare, che non del fare delle cose perché si è sempre fatto così. Esattamente, in un certo senso. No, c'è una ricerca della soluzione migliore, più adatta a quella situazione, a quel problema, a quell'azienda, a quella cultura. Ecco. In questa esperienza, in questi dialoghi appunto con le signore, con le donne, con le manager di alto livello, qual è stata la sorpresa maggiore che ha avuto, quello che non si aspettava da questi incontri? Sì, ha ragione, perché io ho avuto una sorpresa, ma non dal singolo incontro, perché sono tutti molto stranamente, perché vengono da situazioni le più disparate, aziende disparate, età, eccetera, ma a posteriori, mentre io analizzavo questo materiale proprio alla ricerca dei criteri, dei concetti, dell'orientamento di management che ne viene fuori, che è nuovo, ho visto una convergenza, anzi due proprio su due cose nettissime. Una è che c'è una concezione che le aziende si sviluppano se si sviluppa e si fanno crescere le persone che vi lavorano. Ora questo, che prende molte forme, dalla formazione, dalla distribuzione della responsabilità, cioè la responsabilizzazione diffusa, lavorare in autonomia, cioè cose bellissime, straordinarie, ecco, rispondono proprio secondo me alla necessità del momento delle aziende che non hanno risorse. In questo momento far crescere, sviluppare, portare alla luce le risorse nascoste che in azienda ci sono ma non sono utilizzate, ecco, questa io la trovo, cioè fare uscire tutte le forze presenti nell'azienda, a cominciare dalla manager stessa. Certo. Che prova, ecco, io questo è bellissimo. Ecco, c'è una modifica, un cambiamento all'interno delle imprese, se queste imprese sono italiane, magari di tradizione italiana, oppure, come molto spesso capita, sono magari multinazionali, sono manager che lavorano in imprese che hanno culture diverse, culture anglosassone, culture francesi, che pure operano in Italia. C'è una differenza di visione, di prospettiva, di mentalità nell'essere donna manager in imprese di questo tipo? Ci sono sicuramente meno difficoltà nelle imprese internazionali, almeno da un punto di vista formale. Si sa che le multinazionali, per esempio, fanno le cosiddette politiche di diversity per promuovere l'arrivo delle donne, eccetera. Qui però c'è una cosa comune, perché dietro queste facciate un po' formali rimane una cultura abbastanza simile sulla donna che sia una manager, ma fino a un certo punto, insomma, il modello di manager è il manager, ecco, e su questo si è sempre valutate. Però c'è un'altra cosa che invece accomuna queste donne ovunque lavorino, che è quello di andare oltre una cultura formale di fare le quote per la diversity, ma di cambiare la mentalità, cambiare la cultura aziendale. Vuole un esempio? Tanto per dirle una cavolata. Io stavo chiedendo. No, un piccolo esempio che sembra una banalità, ma ha cambiato la cultura. Appunto, in una multinazionale, la responsabile, una cosa americana finanziaria, la responsabile del personale ha avuto le sue direttive di aumentare le quote di donne nelle posizioni. Allora poteva dare la direttiva, dire a ogni manager: voi avete questo obiettivo, cos'è? E però questi avrebbero ubbidito torto collo, questi, ecco, magari con malumore. Lei ha fatto un'altra cosa: per ogni posizione scoperta qualificata ha aperto un reclutamento interno, ha chiesto a tutti di segnalare persone del loro settore adatte, con però un obbligo, tra queste almeno una donna. E se non segnalavano una donna, chiedeva: ma sei sicuro? Hai guardato bene? È possibile che non ci sia proprio una donna. Alla terza sollecitazione questi manager hanno cominciato a entusiasmarsi, perché loro stessi si sono accorti dei tesori che avevano lì, che non usavano, perché non erano abituati a vedere le donne con una potenzialità di carriera manageriale. E questo ha cambiato la cultura dei manager. Questo qui funzionerà per il resto della vita, non per quella politica singola specifica. Ecco, ma visto dall'interno, la realtà aziendale, appunto, c'è la necessità e la possibilità, l'opportunità di valorizzare il lavoro femminile. Diciamo, la donna manager si sente capace, si sente sempre su un gradino in cui deve fare un passo in più rispetto al suo collega maschio? Sì, non è che si sente, questo lo deve fare. Cioè, questa è la cultura aziendale. Tu devi, come diceva una vecchia, la prima presidente del Canada, tu devi lavorare due volte meglio per ottenere la metà di quello che fanno gli uomini. Però aggiungeva: per fortuna non è difficile. Questo lo diceva lei, però ridiamoci. No, però invece quello che secondo me è più importante, le donne si sentono benissimo e queste cose le fanno, le hanno fatte con un grande coraggio, veramente. E però c'è sempre, come dire, una scarsa capacità di dare valore a quello che si fa, cioè di farlo cioè non basta fare il cambiamento, bisogna farlo riconoscere dall'azienda in modo che entri nella cultura aziendale. Certo. Quindi le soluzioni mai individuali, ma attraverso cambiamenti organizzativi di valore generale, ecco, fissarle in questo modo, oppure mettendo dei vincoli, delle norme, vincoli di premio, di valutazione di premio, per esempio per il lavoro collaborativo, il lavoro di gruppo, invece che scannarsi con la competizione. Ecco, la capacità di valorizzare appunto le altre persone, di far crescere anche sì. I propri collaboratori. Questa è forse una realtà in cui le donne capaci di avere una visione, diciamo così, più umana del rapporto. Non è mica una vergogna, magari si umanizzasse di più il lavoro. Ecco, possono avere anche questa capacità di valorizzare, sì. Di avere un ambito lavorativo in cui ognuno trovi il suo posto, la sua vocazione, per usare una parola grossa. Io lo vedo molto diffuso nelle donne, questo fatto di far crescere gli altri. Ma secondo me è anche una visione strategica più intelligente, perché se tu distribuisci, come diceva una, il massimo del potere è distribuire il potere. Se tu responsabilizzi tutto il tuo gruppo di lavoro, lo valuti per quello che fa per se stesso, ma anche come risultato comune collettivo, questa donna si toglie una serie di compiti e di pesi e può concentrarsi di più sulla strategia. Quindi non è una cosa umanitaria, le donne non fanno beneficenza, sono umane, ma non è questione. Sì, però hanno una capacità in fondo di gestire le emozioni. Infatti si parla a un certo punto del libro che quello che riguarda l'andamento emotivo dell'azienda, che incide sulla sua capacità di produrre buoni risultati. Ma sì, ma questa vorrei dire, questa qui è una banalità che dovrebbero ormai aver imparato tutti, cioè noi continuiamo a dire l'azienda, la razionalità eccetera, l'azienda è un posto dove si scatenano le passioni più violente che ci siano, poi c'è tutta la facciata, in realtà ci si accoltella tutti in qualche modo, si sa che le passioni ce le portiamo dentro, non puoi dire stanno fuori dalla porta in azienda. Ecco, per concludere, dando un po' un quadro della realtà delle imprese italiane, del management femminile nelle imprese italiane, lei ha incontrato molto ottimismo, per dire così, oppure una visione, come molto spesso accade, è sempre un po' del dire che tutto va male, in fondo, no, tutto da rifare. No, se uno dice che tutto va male, tutto da rifare, non farebbe le cose che queste donne hanno fatto. Io quello che ho trovato è una grande fatica, perché queste sono donne di primissimo livello, non nel senso della carriera, ma di qualità della persona, di qualità manageriale anche, e l'hanno fatte. Però ci vuole una fatica mostruosa, non è detto che tutto ti venga riconosciuto, a volte paghi invece dei prezzi al contrario, e soprattutto ci vuole coraggio. Le donne, almeno molte donne, ce l'hanno, hanno il coraggio di cambiare e di restare fedeli ai loro concetti e ai loro principi, che in fondo il loro principio, l'altro punto di grossa convergenza, questo glielo vorrei proprio dire, è concepire l'azienda come un luogo dove convergono soggetti diversi, sì, che certo, hanno interessi diversi, ma di tutti bisogna tenere conto, non solo di chi ha le quote di proprietà eccetera, ma anche di chi lavora, perché tutti creano il valore dell'azienda e tutti devono partecipare a questa logica, esatto, di cambiamento che è imposta da una realtà esterna molto complessa, confusa, in cui cerchiamo ogni tanto di complicarci nella vita anche da soli, che è contrassegnata da una grande rivoluzione tecnologica, ma che tutto va preso come una grande opportunità, possiamo chiuderlo così. Certamente, certamente. Grazie mille, grazie a Luisa Pogliana di essere stata con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Esplorare i confini, pratiche di donna che cambiano le aziende, edito da Guerini Next, sono 144 pagine per 17 euro. Grazie anche ad Andrea Roccabella in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.